l'altra Europa. Buon sabato da Federico Taddia e benvenuti all'Altra Europa. Siamo in diretta dagli studi di Milano di Radio 24 con il nostro appuntamento settimanale che ci porta all'interno del continente da un altro punto di vista. Però Radio 24 segue quotidianamente quella che è l'attualità europea. Noi il sabato cerchiamo un po' le sfumature, i dettagli, storie, persone oppure le stesse notizie che hanno appunto rincorso l'attualità settimanale, però cerchiamo di portare altri contributi. Le coordinate per intervenire in diretta via SMS al 349-238-6666 oppure attraverso Facebook, le nostre pagine ufficiali facebook.com/l'altra Europa. Oggi non sono solo, come in studio un collega giovanissimo, ma è un collega e si chiama Federico Gatti, vive a Londra ed è l'unico italiano che lavora al Bureau of Investigative Journalism, che è un'istituzione nuova, una fondazione appena nata. Ciao Federico, benvenuto. Un buongiorno a tutti. Oggi racconteremo la tua storia di un'altra Europa o forse anche di un'altra Unione Europea, perché il tuo è un lavoro interessante che poi andremo a conoscere, però spiegaci intanto che cos'è questo bureau. Dunque, il Bureau of Investigative Journalism è una società no profit di produzione giornalistica di base a Londra. In pratica noi svolgiamo inchieste di lungo, di ampio raggio per quanto riguarda sanità, fondi pubblici e quant'altro. Abbiamo già avuto modo di collaborare con BBC, Financial Times per le nostre inchieste e speriamo di continuare così. Sei un segugio della notizia e insomma poi lo scoprimo, perché ho letto un po' insomma delle tue inchieste, no? Spesso in volo, spesso in giro per questa Europa. Hai scoperto anche del marcio all'interno dell'Unione Europea, hai e avete scoperto, insomma. Sì, dunque per quanto riguarda i finanziamenti pubblici abbiamo scoperto che molti dei soldi dei contribuenti europei sono finiti nelle mani della criminalità organizzata, che sono finiti nelle mani delle multinazionali, e c'è stata una gestione poco accurata di questi fondi europei. Ne riparliamo più tardi. Vogliamo dare un sito intanto per chi volesse conoscervi? Sì, www.thebureauinvestigates.com. Abbiamo già aggiornato la nostra pagina in Facebook, quindi potete trovare il link e iniziare a navigare. Noi partiamo per il nostro viaggio europeo e partiamo dal Belgio. De voorstellen in zaken Brussel zijn vanuit Vlaams oogpunt echt desastreus. De wettelijke tweetaligheid van de hoofdstad wordt zo goed als geschrapt. En de politieke garanties voor de Vlamingen in het gewestbestuur worden van onderuit uitgehold. Desondanks krijgt Brussel er jaarlijks bijna 600 miljoen bij. Brussel wordt meer en meer een soort... Niente da fare, in Belgio non gliela fanno, questo governo non vuol nascere anche l'ultima proposta del leader francofono Elio Di Rupo. Aveva un'idea, aveva un accordo in mente, è stato bocciato. Il Belgio continua dopo non so quanti giorni a non avere un governo, e per conoscere l'attualità come sempre abbiamo la nostra voce ufficiale da Bruxelles. Diamo il benvenuto a Pierre Marlet, giornalista della TV belga. Ciao Pierre. Ciao. Ciao, ben ritrovato. Sì, sì. Buongiorno Federico. Allora, oggi volevo parlare di amore, va bene Federico? Oh, finalmente un argomento nuovo. Pier, vai con l'amore. Sì, perché la vita è un po' come l'amore, no? Parlo in italiano. E allora si dice anche che ci sono storie di amore che non finiscono bene. C'è una canzone francese che dice questo. Sì. E allora questo è mi racconto. C'era una volta una bella donna, una ragazza di buona famiglia, la famiglia di lingua francese, grande prestigio, era ricchissima perché aveva investito nell'industria pesante, a quest'epoca pesava denaro, nelle miniere di carbone, e si chiamava Valonia. Era sposata di un uomo un poco rustro del campo che parlava una lingua poco conosciuta, il signore Flandres. Sua sposa prendeva un po' in giro questa lingua, sì, e questo non le piaceva per niente. Questo era tanti anni fa. Adesso il tempo è passato, le cose hanno anche molto cambiato. Adesso, dagli anni 60, il signore Flandres è molto più ricco che lei. Donna Valonia si è invecchiata, ha conosciuto anni molto difficili negli 70, negli 80. Adesso si sente un poco meglio, ma suo sposo ha perso tutta pazienza, vuole essere sempre più autonomo e vuole più denaro. donna Valonia dice oggi, ma se non c'è più solidarietà tra noi, vale ancora la pena di vivere nella stessa casa? Il problema sarebbe di sapere come fare il divorzio. Con chi va a rimanere il bambino? Il bambino che è un grande successo in Europa, che nessuno vuole perdere. Bruxelles, ci credo. La capitale d'Europa, isolata da Valonia per Flandres, ma con una popolazione al 90% francofona. Questo, Federico, è la situazione di oggi. Molte domande senza risposta. Come questa storia va a finire? Amore non c'è più realmente, solo rimangono tra noi qualche interesse comuni. Ma c'è voglia di questo divorzio? No, realmente la gente non vuole il divorzio, ma sempre la stessa cosa, che andiamo a domandare ai fiamminghi, vuole l'indipendenza di Flandres? Dicono no, non vogliamo, ma vogliamo più autonomia. E il problema è che come fare ancora più di autonomia con il fatto di rimanere la solidarietà, la sicurezza sociale tra noi, eccetera, eccetera. E questo è il problema di oggi, il problema di Bruxelles anche. Allora abbiamo bisogno di diversi partiti per fare un negozio, e due partiti fiamminghi adesso non vogliono più negoziare le proposizioni fatte per Elio Di Rupo. Elio Di Rupo che è venuto negli anni 50, no, più è venuto tanti anni fa quando c'era lavoro in Valonia nelle miniere, nell'industria pesante, che è venuto d'Italia, e adesso nessuno non vuole più, i due partiti fiamminghi non vogliono più negoziare. Abbiamo bisogno di questi partiti. Allora, se non possiamo più discutere, se non possiamo andare a votare perché nessuno vuole anche andare a votare, allora è impossibile a risolvere. E se qualcuno in Italia, se tu Federico, se qualcuno può aiutare, per favore, chiama direttamente il re, perché adesso hai preso bene, esatto. Nessuno non può sapere come fare. E in tutto ciò, la tua ironia con cui hai introdotto l'analisi della situazione è metafora un po' anche dell'atteggiamento ormai della popolazione, che comunque è stanca, è rassegnata, è disincantata, è quasi abituata anche a questo stato ormai. E questo è vero, Federico, e questo è pericoloso, perché la gente adesso non può vedere che soluzione possiamo trovare. Allora dice, se non possiamo fare niente, andiamo a aspettare ciò che va a arrivare, perché adesso l'economia funziona, non diciamo bene, ma funziona un poco meglio che altri paesi di Europa. E allora si dice, se l'economia va bene, il paese, andiamo a vedere, forse questa settimana andiamo a fare la festa nazionale, e ogni anno la gente si dice che forse sarà l'ultima, andiamo a vedere. Pier, come sempre, grazie per averci dato un assaggio di questo Belgio, che insomma così piccolo ma così importante, è il cuore dell'Europa con la sua Bruxelles. Ci piace seguire un po' le vicende, anche se appunto sta diventando una storia infinita. L'ironia e l'umore è importante, perché è meglio della disperazione, no? Certo. Grazie Pier, ci ritroveremo ahimè sicuramente nelle prossime puntate qui all'Altra Europa. Ciao e buon sabato. Noi ci fermiamo, un Europostit, le informazioni per chi sta viaggiando, e poi ancora qua con l'Altra Europa. Europostit. Festa nazionale belga. Il 21 luglio si celebra la Festa nazionale del Belgio, in cui si ricorda l'ascesa al trono di re Leopoldo I nel 1831. Le principali parate e feste si svolgono a Bruxelles. La tradizione vuole che la sera che precede le celebrazioni federali il re rivolga il suo tradizionale discorso alla nazione. Di mattina la famiglia reale partecipa invece alla funzione del Te Deum presso Saint-Michel et Gudule a Bruxelles, durante la cui esecuzione sono presenti tutti i rappresentanti di tutti gli orientamenti religiosi. Le manifestazioni più importanti si svolgono poi il giorno 21 tra il Parco Cittadino e la Piazza Poléart, con sfilate della polizia, bande e parate di corpi militari e civili. Alle sfilate ufficiali fanno di contorno spettacoli di circo e laboratori per i bambini. Trovate più informazioni sul sito del turismo belga, opt.be. Eccoci qua in studio, ancora in diretta con me, Federico Gatti, giornalista freelance, lavora però a progetto in questo importante bureau, questa fondazione che c'è a Londra, fanno giornalismo d'inchiesta, fanno sì, giornalismo d'inchiesta credo che sia la formula migliore. Federico, intanto tu sei giovanissimo, quanti anni hai? Sì, io ho 27 anni. E come sei arrivato a Londra? Ma volevo ricollegarmi al nostro amico, il collega belga Pierre. È stato anche tu una favola, eccola. Sì, perché ho seguito una ragazza che mi ha spinto, mi ha dato la spinta decisiva per fare un master su a Londra, in una scuola prestigiosa, si chiama la City University of London, e è stata una bellissima esperienza. È durata un anno, dopodiché il bureau che ha gli uffici adiacenti alla City University era alla ricerca di un italiano per un massacrante progetto sui fondi europei, fondi strutturali europei, e insomma i professori hanno fatto il mio nome e io ho iniziato il primo giorno al bureau e mi è stato detto di fare un database con 600.000 dati di beneficiari di fondi strutturali europei. Una cosa massacrante, io pensavo di essere finito davvero in una gabbia di matti. Ci sono stato un po' su, ho imparato, mi sono specializzato in Excel per qualche settimana, poi ho detto ragazzi, qua io per quanto riguarda il mio cantuccio italiano, io so dove finiscono i fondi europei. E allora ho proposto una storia, ho proposto la storia dell'eolico, ho proposto la storia della famigerata Salerno-Reggio Calabria. E abbiamo presentato questa storia alla BBC, ad Al Jazeera, ed ambedue hanno deciso di finanziarci il progetto, che è durato 9 mesi. Ok, aspetta, ti fermo un attimo, perché certo. Il bureau nasce come fondazione privata? Sì, è no profit. Abbiamo ricevuto uno stanziamento di 2 milioni di euro nell'aprile 2010, quindi siamo giovanissimi, e ci sono diciamo una ventina di colleghi, tutti a progetto, giro come me, sì. Che lavorano in base appunto alle storie che vengono commissionate dai grandi media. La primissima storia è stata questa Europe Lost Billions, è stato un progetto che ha coinvolto il Financial Times, abbiamo lavorato a quattro mani con loro, e in pratica è partito da una raccolta dati su 169 regioni europee. Abbiamo dovuto trovare tutte le liste dei beneficiari e raccoglierle in un enorme database, quindi non sono stato solo ovviamente, eravamo una decina di giornalisti a lavorarci. E una volta che hai raccolto le informazioni in senso compiuto in un database, puoi ricavare le storie. Ed ecco che abbiamo ricavato diverse storie riguardo ai fondi europei, fondi strutturali, che ricordiamo agli amici ascoltatori sono quei fondi che servono nelle aree disagiate per raggiungere gli standard europei, quindi strade, infrastrutture, alberghi, enti del turismo. Una risorsa fondamentale. Per lo sviluppo e insomma una delle risposte concrete, no, dell'Unione Europea verso gli Stati membri. Assolutamente, e non stiamo parlando di noccioline, perché nel periodo che noi abbiamo preso sotto esame dal 2006 al 2010 c'erano ben 350 miliardi di euro allocati in Europa. Il problema è che l'Unione Europea, una volta che alloca questi fondi a fondo perduto, quasi se ne dimentichi, nel senso che non ha una struttura adatta a controllare che fine facciano questi soldi. Certo c'è l'Olaf e il Cocobu, il cui ex presidente era Luigi De Magistris, neo sindaco di Napoli, però questo Olaf, che dovrebbe controllare i fondi europei, dove finiscono e come vengono utilizzati, conta una sessantina di addetti. Sì. Totalmente un numero totalmente irrilevante, inadeguato. Certo. E quindi per ritornare alla nostra storia abbiamo trovato che i fondi europei per milioni di euro finivano alle multinazionali, British American Tobacco tra l'altro, cioè produttore di sigarette, oppure McDonald's, IKEA, Siemens. So che magari in Italia non è così una notizia così grave, però percepita in Inghilterra il fatto che una multinazionale, senza nessuna criticità in questo, una multinazionale riceva fondi pubblici per magari delocalizzare o per fare le sue strategie di mercato, è sembrata una cosa che stonasse. Ma non solo, abbiamo scoperto che per milioni di euro dei progetti nel sud della Spagna non sono mai partiti, o che se sono stati costruiti, sono stati costruiti su aree protette dell'UNESCO, quindi abbiamo visto un resort di 7 stelle costruito nel mezzo di una riserva naturale. E quando dice abbiamo visto, cioè abbiamo trovato, avete inseguito la notizia, vi siete spostati, avete viaggiato, avete fatto proprio il lavoro giornalistico al 100%. Sì, certamente sì, siamo andati, abbiamo intervistato i protagonisti, abbiamo chiesto notizie e resoconti all'Olaf, siamo andati a Bruxelles, io ho parlato con De Magistris un paio di volte, insomma abbiamo fatto proprio un lavoro giornalistico paneuropeo. Questo lavoro è sfociato in una settimana di un inserto speciale del Financial Times che ha riscosso notevoli apprezzamenti, soprattutto dalla Commissione Europea, che ha detto ragazzi avete fatto una cosa che neanche noi burocrati saremmo stati in grado di fare. Speriamo l'anno prossimo di aiutare le istituzioni a lavorare a quattro mani e magari scovare altre storie, o speriamo trovare nessuna storia. Io sarei molto contento. Che credo che, insomma, che sia anche un po' la finalità del bureau, no? Cioè, comunque andare là a scovare dove c'è del marcio, affinché non solo vendere lo scoop, non solo vendere la notizia, ma appunto fare anche un salto culturale, che credo che sia una cosa, sì, proprio nelle finalità e vostre. E coinvolgere le istituzioni, far sì che le istituzioni prendano, per dire, l'esempio, e poi chiudo, della Twinings, la produttrice di tè, era stata beneficiaria di 12 milioni di euro per delocalizzare. Le istituzioni hanno detto no, in seguito alla nostra nostra inchiesta hanno bloccato il fondo. Quindi speriamo di continuare su questa linea. Torneremo sulle tue inchieste, intanto invece ci spostiamo in Romania. Europost-it. È l'ora degli asini. No, non stiamo parlando di asini a scuola, ma di asini veri. In Romania c'è il più grande branco di asini domestici dell'Est Europa, che adesso si sono messi a insegnare. Gli asini sono infatti ottimi maestri e compagni per persone e bambini in difficoltà, e sono animali calmi e fedeli, perfetti per la pet therapy. È quello che hanno organizzato l'Associazione contro il randagismo Save the Dogs e il Centro Don Orione di Volontari, per cercare di migliorare la qualità di vita dei bambini orfani del Centro Don Orione vicino a Bucarest, affetti da vari livelli di disabilità. Il progetto si chiama It's Donkey Time ed è il primo programma di onoterapia, terapia assistita con gli asini, attivato in Romania da un gruppo di associazioni no profit. Trovate più informazioni sul sito savethedogs.eu. Partiamo dagli asini per parlare di Save the Dogs, questa associazione nata sull'asse Milano-Romania, un'associazione che nasce per volontà di una pubblicitaria che a un certo punto rimane sconvolta dallo stato di degrado legato agli animali, ai cani in particolare in Romania, decide di abbandonare il proprio lavoro e di dedicarsi anima e corpo ai cani randagi rumeni. Lei si chiama Sara Turetta, è qua con noi. Ciao Sara. Buongiorno. Buongiorno a te, grazie per aver accettato il nostro invito. E nessuno meglio di te appunto ci può dire che cos'è Save the Dog, perché è nato, ma un po' l'ho anticipato, poi magari puoi aggiungere se ci sono elementi fondamentali, ma soprattutto che cos'è oggi Save the Dog. Sì, allora l'associazione è nata per un mio innamoramento, quindi c'è qualcuno che si sposta all'estero sulla scia di una storia d'amore, diciamo, a due zampe. La mia è stata una storia d'amore a quattro zampe, perché nel 2001, quando ho visto lo sterminio che l'allora sindaco di Bucarest, oggi presidente della Romania, Traian Basescu, aveva intrapreso, ho deciso di interessarmi e di capire che cosa stava avvenendo dietro casa nostra, perché la Romania è tutto sommato un paese molto vicino. E da questa esperienza, da questo contatto con lo sterminio dei cani randagi, che in Romania sono tantissimi, si parla di un paio di milioni di cani randagi, è nato il desiderio di cambiare vita e di lasciare la pubblicità, e mi sono trasferita in Romania partendo da zero e avviando alcuni piani di sterilizzazione, convincendo dei sindaci a interrompere le uccisioni e spiegando loro che non è quello il modo di affrontare il randagismo. È stato un inizio pionieristico dal nulla, che però negli anni ha portato a dei risultati, e nel 2005 è nata Save the Dogs, che è anche una sede in Italia e che raccoglie fondi per finanziare i progetti che l'associazione porta avanti in Romania. Oggi ci sono 40 persone in Romania che lavorano per la nostra Onlus, quindi diciamo che abbiamo bruciato i tempi, perché in 9 anni siamo cresciuti veramente tanto, e poi appunto ho una serie di collaboratori in Italia che mi aiutano a costruire il budget per, certo, portare avanti tutto. Sara, però ecco, cosa significa lavorare in Romania? Contestualizzaci un po', cioè in che situazione ti sei trovata o ti trovi a operare? È stato difficilissimo. Noi siamo in una località a 200 km ad est di Bucarest, quindi siamo in una provincia estremamente depressa da un punto di vista economico, con dei problemi sociali enormi legati alla disoccupazione, all'alcolismo, alla violenza domestica. È una situazione di degrado urbanistico e sociale. In particolare noi lavoriamo a Cernavoda e Medgidia, che sono città non lontane dal porto di Costanza, che è un crocevia di traffici più o meno legali, e appunto una città estremamente piena di corruzione e di problemi. Gli inizi sono stati difficilissimi perché per definizione c'è molto sospetto, non c'è possibilità di capire qualcuno che da una città come Milano possa trasferirsi in luoghi del genere per passione, certo, per il desiderio di cambiare qualcosa in meglio. E quindi all'inizio c'erano queste bizzarre ipotesi sui reali motivi per cui questa ragazza italiana si era trasferita lì, e quindi molta ostilità e molta diffidenza. Però con gli anni e con la pazienza abbiamo fatto breccia nel cuore della gente, almeno di una parte delle persone che vivono nelle nostre due località, per cui si è creato un buon rapporto. E ovvio che è un lavoro di lungo periodo, perché il nostro non è un lavoro soltanto di intervento sugli animali, ma è un lavoro proprio di costruzione di una nuova mentalità e di un nuovo atteggiamento nei confronti degli animali. Certo, c'è tutto un percorso culturale a fianco. Ma Sara, ma è un progetto che ha senso replicare anche in altre nazioni o è tipicamente strutturato per la Romania? No, diciamo che il nostro viene definito un progetto di TNR, che sarebbe il Trap, Neuter and Release, detto all'inglese, quindi cattura, sterilizza e rilascia. Ed è uno schema di lavoro che, così per dirlo in termini così nostri, che sono più vicini a noi, è lo stesso meccanismo per cui i gatti randagi vengono sterilizzati e reimmessi in colonia. Sì. Questo avviene dove c'è randagismo endemico canino anche per i cani, e ci sono progetti come il nostro in tanti paesi del mondo, soprattutto in Sud America, in India, laddove c'è un problema importante. Quindi in realtà sono progetti replicabilissimi, anzi speriamo che sempre più associazioni li avvino. E tu invece in Romania adesso stai pensando, mi pare di aver letto dal sito, comunque anche di spostarti in altre regioni, comunque fare una copertura totale sulla nazione, diciamo. Diciamo che speriamo che questo possa avvenire. Noi già attualmente ci spostiamo con la clinica mobile, che è un camper attrezzato per poter raggiungere villaggi sempre nella nostra provincia, nella nostra regione, per raggiungere villaggi dove le condizioni di vita sono quelle più o meno del dopoguerra italiano, quindi senza servizi igienici, senza acqua corrente, senza strutture sanitarie per le persone, immaginatevi per gli animali. Con questo camper noi forniamo la sterilizzazione gratuita a veramente centinaia e centinaia di famiglie, e non solo, anche la vaccinazione degli animali, e quindi andiamo a tutelare la salute dei padroni. E quindi è ovvio che il desiderio sarebbe quello di estendersi, però non sarebbe neanche giusto sostituirsi alle istituzioni. Purtroppo le autorità rumene hanno un approccio totalmente sbagliato rispetto a questo problema. Si continua a massacrare e uccidere i cani randagi in una maniera che non ha nulla di europeo, e quindi noi siamo un pungolo, siamo uno stimolo e un modello che andrebbe seguito, ma non possiamo sostituirci alle istituzioni, insomma, rumene. Certo, insomma, è importante collaborare con loro, ma assolutamente non sostituirsi. Esatto. Grazie davvero Sara, complimenti. Ricordiamo il sito, che è www.savethedogs.eu, che abbiamo già linkato anche dalle nostre pagine in Facebook. Ci ritroveremo sicuramente, magari una volta che sei in Romania sul campo, facciamo un collegamento in diretta molto da là. Volentieri. Ciao Sara, grazie. Grazie, ciao, ciao. Progressivement d'ici 2014, les Afghans assumeront la responsabilité de leur sécurité. Ils le feront grâce aux forces armées et de police que nous formons. Il faut savoir finir une guerre. Non ha mai été question pour la France de conserver. Ancora buon sabato da Federico Taddia. Questa è l'altra Europa. Quello che invece state ascoltando è Sarkozy. Sarkozy che parla di Afghanistan, che parla di missioni estere. L'abbiamo preso per lanciare il tema di questa settimana di Euronet. Ogni settimana scegliamo un tema comune dove cerchiamo di portare i nostri contributi, e il tema di questa settimana è un tema diretto, c'è l'Afghanistan, la Libia, quelle che sono comunque le missioni all'estero che coinvolgono i paesi dell'Unione Europea, quanto poi coinvolgono nella politica interna. Un tema grande, un tema importante, un tema dove è anche difficile trovare una risposta, però volevamo capire meglio cosa sono queste missioni all'estero, e per farlo abbiamo invitato una giornalistica ed esperta di quelle che sono le politiche dell'Unione Europea, anche autrice di un libro di recente pubblicazione che si intitola 2020, la nuova Unione Europea, l'Unione Europea tra allargamento e vicinato, crisi, vertigine, vecchie e nuove strategie. Diamo il benvenuto a Silvana Paruolo. Ciao Silvana. Ciao Federico, ciao. Buongiorno. Buongiorno a te. Libro tra l'altro che verrà presentato proprio lunedì presso lo Spazio Europa a Roma. A Roma. Esatto, ci sì, sarà. In via 4 novembre 149. Ci sarà Dino Pesole del Sole 24 Ore come moderatore, insomma, discusso anche con tante persone, quindi perché è un tema importante, perché insomma hai centrato un'attualità che noi conosciamo bene, che è quella dell'Unione Europea in vista del 2020, e si parla di strategia. Tu sei un po' esperta appunto di quelle che sono le politiche e le strategie. Sì. E entra tanto anche la politica estera, no, in questa Unione Europea. Sicuramente, sì. Ho dedicato due capitoli alla politica estera, di sicurezza e di difesa. Uh-huh. Riprendendo il tuo tema, l'Afghanistan, vorrei innanzitutto specificare che è una l'ISAF è una missione della NATO e non dell'Unione Europea. Certo. In effetti di missioni ce ne possono essere di quattro tipi: la missione NATO, le missioni UE nell'ambito degli accordi Berlin Plus, e le missioni che utilizzano altre missioni sono quelle che utilizzano quartieri generali nazionali, e poi ci sono le missioni di Pittsburgh. Il problema dell'Afghanistan in realtà è che lì si continua a morire, quindi io punterei il dibattito sull'importanza di una politica estera comune, su una valorizzazione dell'originalità dell'approccio dell'Unione Europea, che è fondato sul primato del soft power, cioè su diplomazia, commercio, aiuti, missioni di pace in diverse zone di crisi del mondo, e punterei anche su un rilancio, una valorizzazione delle innovazioni introdotte dal Trattato di Lisbona, che non sono di poco conto. È nato, c'è adesso la Miss Ashton che dovrebbe essere il ministro degli affari esteri dell'Unione Europea, ci sarà un servizio diplomatico europeo. È vero che l'Ashton non brilla di iniziativa politica né di forza politica, però questo comunque è attribuibile anche alla responsabilità degli stati nazionali, a questa Europa sempre più intergovernativa. Insomma, adesso al di là dell'Afghanistan c'è anche la Libia, no? Dove ogni stato sembra che un po' voglia fare un po' quel che gli pare, no? È un po' contrasta, no? Noi parliamo di Unione Europea, tu 2020, quindi anche visioni future, poi la quotidianità è tutt'altra. Ma per esempio un esercito comune potrebbe essere una soluzione? Sì, secondo me sì. Infatti io pongo tra i quesiti che nel mio libro è possibile avanzare verso un esercito europeo. Ad oggi di questo non c'è un concetto univoco, va inteso quale forza militare integrata con comandi operativi permanenti. Questo è un quesito base, e di certo c'è molto molto resta da fare se si vuole andare nel senso della costruzione di uno strumento militare europeo, perché quando si devono fare i bilanci o gli approvvigionamenti di armi, ci sono 27 eserciti, 28 aeronautiche e più di 20 marine da sostenere. Comunque, appunto per quello che dicevi tu, nel momento in cui da una parte ci sono le opportunità offerte dal Trattato di Lisbona che restano non utilizzate, infatti lo stesso Parlamento europeo di recente ha adottato una risoluzione in cui invita gli Stati membri a lanciare numerose azioni concrete per rilanciare una politica di sicurezza e di difesa comune. Perché benché negli anni scorsi parlare di difesa europea era un tabù e una politica autonoma di difesa era considerata molto dibattuta, perché c'è chi teme alla lunga un distacco transatlantico, e lo stesso termine autonomo pone problemi, perché per i francesi significa indipendente dalla NATO, per gli inglesi significa complementare. Comunque di certo alla fine del 2010 c'è stato un accordo franco-inglese che apre delle nuove prospettive, anche nel senso di questo sogno di una forza, di uno strumento militare unico, che tra l'altro oggi secondo me imposto, oltre che dal nuovo ordine mondiale sempre più multipolare, sì, anche dalla crisi globale, certo, del 2008-2009, che richiede sacrifici ai cittadini, quindi una razionalizzazione della stessa spesa militare per renderla più efficace, valorizzando l'approccio anche del soft power e quindi di una cooperazione anche civile in cui l'esercito può contribuire, potrebbe essere secondo me una prospettiva per il futuro. Certo. Silvana, grazie davvero per questo tuo contributo. Un'ultima domanda prima di salutarci. Sì. 2020, la nuova Unione Europea, questo è il titolo del tuo libro. Sì. Il sottotesto non scritto è di pessimismo o di ottimismo? Nel senso, questa Europa riusciremo a farla concretamente? Guarda, né pessimismo né ottimismo. Quello che cerco di fare è quello di individuare dei trend e far rendere consapevole di quello che sta succedendo a casa nostra, in Europa, nel mondo, e per far capire che forse l'unica modo per uscire da questo insieme di problemi è un'Unione Europea più forte, perché l'Unione non è certo soltanto spazio economico, è anche un insieme di diritti e di valori da saper difendere a casa nostra e nel mondo. Ecco perché mi sono chiesta se era necessario e opportuno anche un esercito europeo. Bisogna mirare in alto e mirare in un mondo in cui l'Unione Europea deve avere un ruolo da svolgere, forte e nella difesa di un modello anche sociale unico nel mondo, che è quello poi dei vari paesi membri. Grazie davvero, ricordiamo ancora lunedì 18 luglio presso lo Spazio Europa in via 4 novembre 149 a Roma. Ciao Silvana, grazie, complimenti. Ciao, grazie, ciao. E rimaniamo a parlare di Unione Europea con Federico Gatti, qua con me, ospite in studio, giornalista, fa questa sorta di investigazione dove una ricerca anche della morale c'è, no? Insomma, c'è anche questo approccio di un giornalismo, sì, che sia anche, sì, etico, possiamo, no? Possiamo dire così, la morale noi la troviamo soprattutto per quanto riguarda le spese pubbliche. La nostra amica e collega Silvana ci ha parlato di una spesa più efficace, più calibrata, più razionale. Ebbene, noi siamo andati a fare i conti in tasca alla Commissione Europea e abbiamo scoperto che nel solo 2009, per dire, negli ultimi 4 anni i membri della Commissione Europea hanno speso ben 7,5 milioni di euro per viaggi a bordo dei jet privati. Ora, io capisco che tu sia capo della Commissione Europea e quello che vuoi, però 7,5 milioni di euro non sono noccioline. Soprattutto se a bordo dei jet privati ti porti la famiglia, i bambini, i collaboratori, la famiglia dei collaboratori. Ecco che il nostro punto di vista della moralità entra in gioco quando si tratta di soldi pubblici, soldi che dovrebbero essere utilizzati per il bene della comunità. Sempre per citare l'ultimo lavoro che ho fatto a quattro mani con la bravissima Caelan Barr, mia collega irlandese del Bureau, abbiamo scoperto che nel solo 2009 sono stati spesi più di 300.000 euro in cocktail parties. Ecco, queste cose fanno arrabbiare, no? Perché già, insomma, il palazzo è lontano dalla realtà, dai cittadini. Ai cittadini vengono chiesti sacrifici e queste cifre, sì, insomma. E infatti con noi ha dichiarato Martin Eresauer, che è un europarlamentare, membro della Commissione del Controllo dei Bilanci, ha detto: è estremamente frustrante vedere con quanta facilità la Commissione Europea spende soldi pubblici, milioni di euro, in jet privati e hotel di lusso. Tutto ciò rende il divario tra i cittadini e i burocrati dell'Unione Europea ancora più ampio e profondo. Io mi sono trovato d'accordo su questo. Però anche questo, insomma, hanno preso, grazie alla vostra inchiesta, grazie al vostro lavoro di ricerca, probabilmente hanno preso consapevolezza, o comunque non hanno potuto nascondere cose che magari sapevano e che voi avete, certamente, quantificato. Hai fatto arrabbiare Barroso, insomma? Diciamo che non l'avrà presa bene, perché abbiamo scoperto che il presidente e 8 dei suoi assistenti hanno speso ben 28.000 euro per un soggiorno di 4 giorni al New York Peninsula Hotel, in un hotel in cui le suite costano in media 780 euro a notte. Ecco, diciamo che... questo insomma è il lavoro di inchiesta. E poi magari ci racconti invece di quando ti hanno spedito anche giù, no? Nel sud Italia, anche lì hai fatto inchieste particolari. Sì, diciamo che sempre in questo filone di inchiesta ci siamo focalizzati sui fondi europei che finivano nelle mani della criminalità organizzata, non solo italiana, però io, essendo il braccio italiano, ho dovuto fare un lavoro anche lì, e mi è stato chiesto di trovare una testimonianza che confermasse i milioni, anzi forse miliardi di euro che sono finiti nelle mani della criminalità organizzata nel sud Italia, quindi parliamo di 'Ndrangheta e Cosa Nostra. E sì, mi hanno spedito una settimana in Sicilia per cercare questa testimonianza. Io l'ho trovata grazie a una bravissima collega italiana che si chiama Laura Prati, coautrice di Malitalia. Abbiamo trovato, insomma, lei, diciamo che mi ha passato il contatto di questo ex boss della malavita locale trapanese, che durante l'intervista a quattro occhi, diciamo che ha ammesso il fatto che questi milioni di euro a fondo perduto dati così per la criminalità organizzata locale erano soldi facili e nessuno può biasimarli, perché non ci sono le strutture per controllare dove finiscono questi soldi. E quindi ecco che ingenti fondi, al posto di essere usati per il meglio, vengono elargiti e dimenticati. Questo è un trend, riprendo le parole della collega Silvana, da modificare. Ecco. Queste sono le inchieste di Federico Gatti. Ci fermiamo un momento del traffico, poi torniamo qua con l'altra Europa. Europost-it. Londra d'estate si vede meglio. Volete dare un'occhiata alle Houses of Parliament inglesi, una delle assemblee rappresentative più vecchie d'Europa? Oppure volete visitare Buckingham Palace, la residenza ufficiale della regina? L'estate è un'ottima occasione per togliersi queste curiosità. In occasione della pausa estiva, le Houses e il palazzo sono aperti con molte stanze visitabili. Potrete vedere le stanze dove vengono discusse e decise le leggi inglesi, la Westminster Hall e ovviamente il famosissimo Big Ben. Mentre nel Palazzo della Regina sono aperte al pubblico le sale dove si svolgono i banchetti, i balli e i ricevimenti di Stato. I tour sono guidati e sono disponibili in tutte le lingue principali dell'Unione Europea. Però bisogna prenotare. Trovate tutto sul sito del Parlamento inglese parliament.uk/visiting e su quello della Monarchia Britannica royal.gov.uk. L'altra Europa, ci piace andare anche alla ricerca di stranezze in giro dell'Europa, tipo questa musica che state ascoltando. È un'orchestra nata a Vienna, sono spesso in tournée per l'Europa e anche per il mondo, e quelli che sentite suonare sono strumenti particolari. Sono solo ortaggi, sono zucche, sono melanzane. Loro sono un'orchestra Vegetable Orchestra di Vienna. Questo è il nome. Abbiamo già caricato il video nelle nostre pagine in Facebook. Li potete vedere oltre che da ascoltare. E con noi c'è uno dei membri. Lui suona la zucca e la melanzana. Diamole benvenuto a Ulrich Troyer. Ciao Ulrich. Ciao. Ciao, ciao. Buongiorno. Siete musicisti? Buongiorno. Come? Siete musicisti a tutti gli effetti, vero? Sì, siamo musicisti, artisti e specializzati sui strumenti vegetali. che è una specializzazione particolare, ce lo puoi concedere. Ma come nasce questa orchestra? Come nasce questa idea? L'idea e l'orchestra è nata nel 1998. fra amici per un festival, per una performance a Vienna a questi tempi. E il concerto è stato accolto così bene che adesso lo facciamo da più di 12 anni. E sì. Mm-hmm. Ecco, però per esempio tu come hai imparato a suonare la zucca e la melanzana? Cioè chi ha capito per primo che questi ortaggi freschi, tra l'altro, potevano essere suonati? Sì, io sono un membro fresco, faccio parte dell'orchestra dal 2005. Sì. E sì, metà dell'orchestra è ancora, sono quelli vecchi, e sì, col tempo, con più di 10 anni, è stato un po', sì, venuta mm-hmm. gente nuova. Così io ho imparato 6 anni fa di suonare la zucca, ma diciamo ognuno è sempre, abbiamo le prove sempre martedì, ogni martedì pomeriggio. Okay. Andiamo al mercato di Vienna, Naschmarkt, e compriamo le verdure e poi costruiamo degli strumenti. E diciamo sempre anche facciamo ricerca, inventiamo una cosa nuova e lo facciamo vedere agli altri. E certo, perché sono strumenti che comunque marciscono, essendo frutta fresca, ma tu per esempio quella melanzana, cioè cambiando melanzana però riesci a ottenere sempre lo stesso suono? Sì, in un senso sì, ma diciamo ogni concerto è sempre, suona sempre in maniera diversa, fa sempre musicalmente col suono incompleto, fa sempre senso, va sempre bene, ma è sempre diverso perché gli strumenti e la verdura dipende anche dal periodo dell'anno, diciamo. O per esempio in Cina, dove abbiamo suonato qualche anno fa, le melanzane sono molto più piccole, o forse troviamo al mercato verdura diversa che poi inventiamo nuovi strumenti per quel concerto là. Certo. Ma quali sono, scusa, ci puoi fare una presentazione veloce dell'orchestra? Quali sono gli ortaggi coinvolti? Le carote sono molto importanti, poi la rapa bianca, la zucca, la melanzana, il zucchino, il porri. Sì, insomma, non, in effetti è incredibile, no? Il peperone. Il peperone, ma ecco, per esempio, il peperone c'è cioè, come percussione o come strumento a fiato? Il peperone si può usare per fare degli effetti da suono, diciamo. Sì. Che sì, più o meno sound effect, okay. Ma si può anche usarlo per il gurkofon, cucumber phone, lo chiamiamo in inglese, sarebbe di carota, di un cucumber, cocomero, penso, sì, che cocomero, si chiama in italiano, sì, e con il peperone come un grammofono, cioè, non so, viene per l'amplificazione del suono. Ok, fa proprio da cassa armonica, diciamo, quindi fa proprio sì, da... Sì, sì, giusto. Beh, giusto. Benissimo. La melanzana invece? La melanzana più o meno è un strumento percussivo, sì? Si può creare suoni da batteria, diciamo bass drum, ma si può anche costruire la castagnetta di melanzana, che diciamo, ma si può sempre sperimentare e inventare nuove cose. Fantastico, aspetta, rilanciamo un attimo il file, che intanto mentre ti salutiamo riascoltiamo un po' l'effetto musicale di tutti questi ortaggi. Insomma, siete dei musicisti, siete degli artisti con un'abilità assolutamente altra e diversa. Il sito è vegetableorchestra.org per chi volesse conoscervi. Fate una trentina di concerti all'anno, ma è difficoltoso fare concerti perché ogni volta gli strumenti vanno comunque ricostruiti e si va al mercato con quello che si trova, poi si suona. Uri, complimenti davvero a te. E quando è la prossima tappa o dove siete prossimamente? Il prossimo concerto è inizio agosto in Francia, sì? E poi in Svizzera e poi in Germania in settembre. Perfetto, quindi c'è tempo per fare la spesa. Sì, insomma. Sì. Ok, benissimo. Sì. Okay. Grazie davvero. Ciao Rick, okay. Complimenti. Ciao, ciao. Grazie. Buon weekend. Ciao. Ciao. Grazie, ciao, ciao. E davanti a me Federico Gatti sorrideva, anche questa è l'Europa adesso. Certamente sì. Se vuoi fare un'inchiesta sul prezzo degli ortaggi applicati alla musica, hai... Me lo segno. hai materiale. Federico, non possiamo dire su quello su cui stai lavorando ora, perché comunque... Purtroppo no, c'è il segreto di formazione professionale. Insomma. Ok, però riparti per Londra? Sì, tra poco, martedì. Forse lavorerò con una rete italiana per lo scandalo Murdoch, che adesso su è un grosso terremoto, e vedremo cosa poter scoprire, magari intervistare qualche familiare di persone che hanno il sospetto di essere state diciamo spiate telefonicamente. Vedremo. Ok, hai voglia di tornare in Italia o comunque la sì, tua Italia? Sì, sì, sì, sì, sì, assolutamente. Sì. Certo, sul punto di vista professionale, più stai a Londra, più hai possibilità. E quindi cercherò di far durare questo momento d'oro il più possibile. Certamente tornerò in Italia. C'è molto da fare qua, con molto piacere, quindi... Perfetto. È questione di tempo. Grazie davvero per averci fatto assaggiare te, Federico, la tua esperienza. Saluto tutti gli ascoltatori di Radio 24. Poi siamo qua e se trovi qualcosa e vuoi darlo in anteprima, noi siamo sempre pronti con l'altra Europa. Un grazie a tutta la squadra, un grazie ad Alessandro Balia e a Margherita Ina che con me hanno scritto la puntata. Roberto, di cui in questo momento Scatritti, scusami Roberto, alla parte tecnica, radio24.it è il nostro sito da dove potete riascoltarci in podcast da lunedì. Noi ci ritroviamo sabato prossimo con l'altra Europa e domani alle 17 con Mine Vaganti. Ancora ciao da Federico Taddia.